Esercizio 2. Ascolta e ripeti ciascuna coppia dell'esercizio 1 da sinistra a destra e successivamente ascolta e ripeti le coppie da destra a sinistra. Vile, ville. Polo, pollo. Vale, valle. Ala, alla. Pala, palla. Calo, callo. Molare, mollare. Cela, cella. Stele, stelle. Ville, vile. Pollo, polo. Valle, vale. Alla, ala. Palla, pala. Callo, calo. Mollare, molare. Cella, cela. Stelle, stele.